Buonasera, buonasera a tutti, a tutte. Benvenute, benvenuti a tutti. Io sono Patrick Curru, lavoro come bibliotecario alla Biblioteca Claudio Augusta, che organizza questa presentazione, la presentazione di questa sera. Vi porto ovviamente i saluti della direttrice che è fuori, è all'estero per servizio. E diciamo, siamo una biblioteca che organizza molti eventi, molte attività, molte presentazioni di libri, gruppi di lettura, siamo molto attivi. E la presentazione di questa sera per noi è, se vogliamo, doppiamente importante. Perché, e quindi ringrazio Luca, al quale lascerò subito la parola per presentarsi, ma ci tenevo a dire che questa presentazione, dicevo, rientra in una progettualità più ampia, no? Della Biblioteca Claudio Augusta. Io ricordo l'anno scorso, per farvi un esempio, abbiamo diciamo così, ideato insieme alle colleghe e ai colleghi, e qui c'è, ringrazio la direttrice dell'ufficio del dipartimento, appunto la collega del dipartimento sviluppo economico, un progetto di raccolta di interviste. Insieme alla collega abbiamo girato la provincia di Bolzano per intervistare proprio alcuni dei personaggi fotografati da Luca. Quindi abbiamo intervistato artigiani e artigiane. Devo dire che le donne, poi forse di questo parleremo anche nelle tue foto, diciamo, se non sbaglio c'è solo una donna ritratta, quindi anche quella è un bel tema rispetto al tema più grande dell'artigianato. Dicevo, abbiamo girato la provincia di Bolzano per fare delle interviste a queste persone che si occupano e portano avanti dei mestieri che molto spesso stanno scomparendo. E ci siamo domandati insieme a loro quale futuro per questi mestieri nella nostra provincia di Bolzano, ma anche in generale, diciamo. Quindi, dopo di questo è stata organizzata una mostra fotografica. Ho fatto vedere a Luca prima alcune foto, sempre dedicata all'artigianato, e l'abbiamo organizzata qui al Centro Trevi. Quindi questo molto brevemente per dire quanto questa presentazione è importante per noi, che, diciamo così, o chiudo in cerchio o apre una nuova strada, un nuovo approfondimento su questo tema. Questo solo a livello proprio introduttivo, per presentare un po' di contesto di questa serata. Io chiederei subito a Luca, giovanissimo, classe 2000, nato San Daniele in Friuli, molto famoso San Daniele per chi apprezza la buona cucina. Chiederei a lui di presentarsi, dire appunto chi è e come è arrivato anche in Alto Adige. Buonasera a tutti, io sono Luca Zuccolo, come Patrick ha già detto. Grazie intanto che siete venuti tutti, vedo un sacco di volti che conosco da tantissimi anni in realtà. Come sono arrivato in Alto Adige, bisogna chiedere ai miei genitori, che sono qua entrambi. Mio papà è di San Daniele del Friuli e mia mamma è altoatesina, e per una faccenda o l'altra siamo venuti in Alto Adige e quindi mi trovo qui adesso. Ok, quindi dal Friuli all'Alto Adige, vedevo comunque una zona del Friuli anche, diciamo, molto fortunata, anche turisticamente molto, credo, molto, molto frequentata, ad un'altra zona molto, molto frequentata. Dicevamo, noi ci siamo parlati, diciamo, non più tardi della settimana scorsa, a ricordare un po' quelle che sono state le tue esperienze precedenti. Prima di entrare, diciamo, in questo libro, secondo me è interessante anche capire come ti sei avvicinato alla fotografia. Quindi quali sono stati i tuoi passi per avvicinarti a questo linguaggio così eccezionale, particolare? Allora, io in realtà non volevo diventare fotografo prima dei 13 anni, che sì, può essere... diciamo, mi sono trovato in una situazione dove tantissimi di noi si trovano, che è scegliere il regalo della cresima. E io volevo un computer in realtà, ma mia zia fotografa, mentre parlavamo a una cena o un pranzo di famiglia, ha sentito che a me piaceva fotografare. E alla cresima, quindi, mia zia, che è fotografa, che tra l'altro è anche una persona molto importante in quello che sono io oggi come fotografo, perché poi dopo avermi regalato la macchina fotografica alla cresima, mi ha anche introdotto in questo mondo, facendomi imparare come si fa la post-produzione, come si fotografa e tutto quello che è la fotografia professionale, che poi la fa diventare un mestiere. E poi sono diventato il fotografo delle scuole medie. C'è anche gente che ho fotografato alle scuole medie. E ho iniziato mettendo dei loghi sulle foto delle immagini profilo Facebook. E in poco tempo, in realtà, un sacco di miei amici mi chiedevano se potevo fare una foto per il loro profilo Facebook. E così è andata avanti. Dopodiché, avendo il computer, ho iniziato un pochino a fare anche della post-produzione un po' più seria. Ho iniziato a fotografare al Club Miró. E l'ho fatto per diversi anni, in realtà, tutte le sere, e questo era tutto prima dei 18 anni. A 18 anni poi avevo già fatto qualche matrimonio, ho fatto l'assistente di diversi fotografi per 3-4 anni, e poi a 18 anni ho aperto la mia partita IVA, che tuttora è quello che faccio per vivere. Un percorso molto, come dire, che nasce, quindi potremmo dire quasi in famiglia, no? A questo punto. Adesso qui una curiosità personale: questa tua, la prima macchina fotografica che hai ricevuto, come, qual era e com'è stato usarla le prime volte? Era la macchina fotografica che ho ricevuto alla cresima, e quindi era... mi ricordo era una Canon 770D, già usata da mia zia per diversi anni, e quando ho guardato la prima volta nel mirino è scattato, in me è scattata una passione in realtà istantanea, cioè mi sono ritrovato subito con questa passione. Poi a casa io ho a che fare tanto con arte, mio padre è architetto, mia madre è restauratrice, professoressa d'arte, e quindi ho avuto... in realtà sempre sono stato sensibilizzato abbastanza presto a musiche e artisti e grafiche eccetera di un certo livello, perché le trovavo a casa. E quindi una sensibilità, dicevi appunto, nata e sviluppata in famiglia. Insieme abbiamo parlato di questo tuo forse primo grande progetto del 2023, questa mostra. Fino a quando? Come è arrivato questo tuo, forse, se non sbaglio, il primo grande progetto di mostra? Sì. Potremmo dire così. Sì, sì, è stata la mia seconda mostra, la prima non penso non serva neanche dirla, perché era un contest della scuola, e lì ho fatto una mostra per qualche settimana, però penso che per me, come orgoglio, essere la mostra a Vienna è stato un traguardo molto importante, che poi ha portato anche a questo libro. Stiamo parlando di una mostra del 2023, ospitata in una, diciamo, anche sede abbastanza illustre a Vienna, dove forse hai iniziato ad indagare alcuni temi che poi forse con questo libro hai portato avanti, no? Esatto. Quindi paesaggi innevati, solitudine, con delle domande su un qualcosa che sta sparendo, no? Ti sei chiesto anche quanto durerà tutto questo, e alcune, secondo me, di queste riflessioni poi sono finite in questo libro. Quindi adesso piano piano forse entriamo in questo libro e ti chiederei di dirci com'è nato questo progetto. Allora, io dopo 5-6 anni che stavo fotografando e mi ero messo da parte anche un po' di soldini, mi sono tolto uno sfizio che era comprare una macchina fotografica medio formato che era una Hasselblad. La Hasselblad, per chi non la conoscesse, è la macchina fotografica che ha fatto la prima immagine sulla Luna. Era un'immagine analogica ai tempi, però da lì il marchio in realtà non ha più avuto bisogno di nessun tipo di marketing ed è il sogno di ogni fotografo. L'ho comprata e quando ho scattato le prime immagini mi sono reso conto che non era quell'attrezzo che io volevo, perché era molto lenta e crea dei file molto grandi, quindi rientrando un po' nel tecnico ha bisogno di più tempo per fare degli scatti, non ci sono multiscatti, eccetera eccetera. E, dopodiché mi è caduta in acqua a Madeira e mi è stata ricomprata da mio padre e che ancora oggi ringrazio, perché sennò non ci sarebbe nessun libro. E mi è stata ricomprata, io avevo questa macchina fotografica, ho detto, spinto anche dal fatto che fosse un regalo, ho detto qualcosa bisogna farci, perché secondo me la macchina fotografica io professionalmente la sfrutto già al massimo e questa Hasselblad invece non potevo usarla né per lavoro né per eventi eccetera. Allora ho detto, cosa potrebbe essere una cosa lenta da fotografare? Effettivamente, senza offendere nessuno, per me l'artigianato di una volta, quindi le persone anziane che si prendono più tempo e hanno delle routine un po' più, diciamo, più lente, è stata la prima cosa che ho fatto. Un pomeriggio ero in Friuli, in un paesino piccolo appunto dove sono cresciuto, che è vicino a San Daniele, e ho chiesto a mia nonna se conosceva qualche anziano, no? E la prima cosa che mi ha detto, tuo zio. e sono andato a fotografare mio zio, Luigino, che adesso qui non c'è dentro, comunque c'era dentro lui. Ho fatto queste foto e ho detto, madonna, sono venute molto bene, no? Perché comunque la macchina, la Hasselblad, ha una tridimensionalità, una qualità molto più alta di una macchina fotografica normale. Lavorano molto sui sensori eccetera e niente, quindi tutti i giorni quando ero in Friuli andavo da un vecchio artigiano, un contadino diverso, per fargli delle foto che erano delle foto che io facevo per me, le pubblicavo sui social, però erano delle immagini mie fatte con la Hasselblad, e quindi rientravo anche un po' nel, secondo me, perché ho iniziato a fotografare, che mi piaceva, e dopo diventa un lavoro, e come si dice, se da una passione fai un lavoro, perdi una passione. Poche parole. Con la Hasselblad un pochino l'ho ritrovato facendo questi progetti per me. Dopo troppo poco tempo le ho fatte vedere a una persona che era per sbaglio con noi a Saturnia, io ero in vacanza, e questa persona era uno degli avvocati dello Stato austriaco che veniva a fare, insomma, le vacanze a Saturnia, e ha visto queste immagini e mi ha detto, guarda che io gestisco un posto per fare delle mostre in Austria, che è la Hofburg di Vienna, e mi piacerebbe se tu potessi venire e prepariamo per l'anno prossimo una mostra con i vecchi artigiani italiani. Non mi ricordo la domanda. Praticamente hai avuto la capacità di ritornare indietro alla mia domanda precedente e spiegarci questa mostra di Vienna. No, era sulle prime foto che hai fatto con questa, e come sei arrivato a questo progetto del libro. E quindi ci siamo, piano piano ci stiamo arrivando. Allora, la mostra è stata un ibrido tra immagini di persone che avevo fotografato in Friuli e l'Alto Adige, perché il Friuli, insomma, è una parte di me abbastanza importante, come anche l'Alto Adige, e ho detto proviamo a collegare queste due cose. In realtà stavo bevendo un po' di birre con un mio amico e mi ha detto: ma oggi hai fatto delle foto della neve, sì, anche gli artigiani, sì, entrambe le cose stanno scomparendo, ridendo. In realtà è vero, e quindi ho detto sarebbe forse bello implementare, c'erano 20 immagini, 10 immagini di vecchi artigiani e 10 immagini dell'Alpe di Siusi innevata, della neve in Alto Adige, di tutto quello che noi conosciamo d'inverno, insomma, qua, che col tempo il clima, insomma, scompare. La mostra l'ho chiamata Fino a quando, mettendo insieme questi due temi, ed è stata aperta al pubblico per 60 giorni, insomma, 2 mesi, nella Hofburg di Vienna. E questo è quanto. Poi arriveremo anche al libro, penso. Quindi, diciamo, siamo partiti dalla famiglia, da una... dobbiamo ringraziare appunto una passione che nasce in famiglia, l'acquisto di questa tua prima macchina fotografica, anche delle sue caratteristiche tecniche, diciamo così, che ti hanno spinto a scegliere un soggetto e un'ambientazione, diciamo così, lenta, che poi ha dato appunto il primo risultato nel 2023 con questa mostra a Vienna, e da lì è nato, diciamo così, è nata la possibilità, diciamo, di arrivare a questo libro e quindi continuare questo percorso, se non ho capito male. Sì, esatto, si è collegato, perché secondo me la mostra di Vienna mi ha fatto vedere che fare le foto a questi artigiani è una cosa che mi appassionava e che mi piaceva, e la vedevo come anche, secondo me, un valore aggiunto su quello che scomparirà, perché 8 di 10 artigiani non hanno una generazione che continua. E quindi diciamo che sono le ultime fotografie che vengono fatte di una regione del suo artigianato per un sacco di anni, insomma non ci saranno più. E quindi ho detto proviamo a farlo anche in Alto Adige, e mi sono rivolto col progetto all'Arezia. E l'Arezia, che devo ringraziare moltissimo, mi ha accolto e mi ha detto sicuramente questo è un progetto molto bello da parte tua, cerchiamo di organizzarlo in modo che esca l'anno prossimo. E da lì parte effettivamente il progetto del libro in sé. Io direi che forse possiamo entrare un po' dentro questo libro. Luca ci ha portato del materiale, dei video e ovviamente delle foto. Io forse farei vedere qualche video. Di questi incontri. Così iniziamo a entrare un po' nell'ambientazione, diciamo. Allora, un paio di voi hanno già visto il libro, quindi forse riconoscono qualche faccia. Per chi non l'ha visto, io un pochino cerco di introdurvi ai mestieri. Questo è un calzolaio che è vissuto, cresciuto ed ha imparato tutto a Duonholz, non lo so come si dica in italiano, comunque è sopra Sarentino. Lui mi raccontava, vi do qualche info in più, che per imparare il suo mestiere, lui ha 91 anni, ai tempi, quando ne aveva 14, doveva scendere a Sarentino per tutta la stagione estiva, quindi circa 6-7 mesi, perché d'inverno era impossibile scendere. E lui ha imparato in un ciclo di 3 anni questo mestiere. Il primo anno lui doveva pagare per impararlo, dormiva dalla persona, insomma, che il suo docente o il suo calzolaio che gli stava imparando, che stava insegnando, tra la stanza dove effettivamente si fa il lavoro del calzolaio e il gallinaio, quindi entravano e uscivano le galline. Questo per il primo anno, ed ha pagato per imparare. Il secondo ha lavorato a gratis, dormendo sempre con le galline, e il terzo l'hanno pagato un quarto di quello che poi lui ha potuto raggiungere come professionista. Questa è la Stube che lui dice che ha fatto in modo che tutta la famiglia potesse vivere, che è il suo posto, insomma, il suo atelier di artigianato. E qui lo vedete che mi spiegava le prime macchine per fare le scarpe. Non vi faccio sentire con l'audio perché non lo capivo neanch'io. Un dialetto molto... Sì. Diciamo che su questo mi dai una sponda, rido guardando Elena tra il pubblico, perché quando siamo andati a fare noi le interviste, diciamo, c'è stata un po' la stessa problematica. Affrontare i vari dialetti delle varie valli della provincia di Bolzano è effettivamente in alcuni momenti arduo. Abbiamo messo infatti i sottotitoli in Hochdeutsch, appunto traducendo, possiamo usare effettivamente questa parola, e poi quindi Hochdeutsch, poi in italiano e anche in inglese. Quindi sì, questa è una difficoltà che abbiamo riscontrato anche noi durante le nostre interviste, in effetti, sì. E qui invece siamo un falegname. Qui siamo a Meltina. Questa persona qua che vedete è il figlio del personaggio che ho fotografato, che è tra l'altro anche quello che ha le mani della copertina. E lui invece è il costruttore di una sega veneziana a Meltina, e anche lui ha 91 anni, 92 anni, e io per trovarlo ho dovuto andare a cercarlo con suo figlio. E per me era abbastanza assurdo, perché se io vado da qualcuno per chiedergli suo figlio dov'è, suo padre o sua madre a 91 anni, più o meno la risposta la sa. E invece lui no, e lo siamo andati a cercare in un bosco. E lui era in mezzo al bosco, questo è il signore di 91 anni, da 3 o 4 ore che stava mettendo a posto i rami, perché è il suo bosco. E qui secondo me introduciamo un altro aspetto molto importante per parlare di questo libro, è come hai trovato queste persone. Cioè, nel senso, proprio come, adesso a parte l'aneddoto a Meltina, ma in generale come sei riuscito a entrare in contatto con queste persone? Qual è stato il percorso di avvicinamento? E anche a convincerle a partecipare a un progetto di questo tipo, perché immagino che, non so, persone forse di una un po' schive, forse anche, non lo so, io ho questa idea, però magari mi sbaglio. Ci sono stati due modi. Un modo è stato l'aiuto dei miei conoscenti, dopo che io avevo più o meno 14 mesi per fare il libro. E ho avuto l'aiuto da miei conoscenti, che conoscevano la mamma della nonna, della zia, che poteva essere un personaggio magari importante o che poteva funzionare per questo libro. E invece l'altra cosa è il potere dell'internet. Insomma, io ho fatto delle storie sul mio internet, anche insieme a Larezia, e ho qualche amico che gestisce delle pagine che si riferiscono all'artigianato Alto Tesino, e abbiamo fatto degli annunci che cercavamo delle persone che potevano far parte di questo libro. Effettivamente, dopo 6 o 7 mesi, io ho sentito Efa della Rezia, che è seduta qua davanti a me, abbiamo detto: non abbiamo abbastanza persone. E all'inizio calcolavamo più gente nel libro, e alla fine siamo riusciti in questi 14 mesi a trovarne 10, proprio per il motivo che dici tu. Certe persone non hanno bisogno di farsi vedere, o non sono neanche contente di essere all'interno di un libro, perché comunque io vado lì a rovinare la loro routine. Sono delle persone che funzionano come orologi svizzeri da più di 40 anni. Si svegliano alla stessa ora, vanno a colazione alla stessa ora, mangiano le stesse cose. Hanno sempre dei cicli, molto di ferro, no? Quindi questa è stata una delle difficoltà per trovarli, perché alcuni mi dicevano: no, guarda, grazie, sicuramente interessante, però io no, io ho da fare, se chiedevi ma magari il mercoledì fra 3 mesi, loro sapevano già che a quell'orario lì era difficilissimo, ma in base alle stagioni, neanche ai loro impegni. E anche qui trovo un collegamento con il nostro progetto, perché per fissare degli appuntamenti, per fare queste interviste, effettivamente ci abbiamo impiegato un anno per fare 10 interviste, effettivamente è difficile trovare un momento in cui queste persone possono effettivamente dedicarti del tempo e quindi interrompere quello che stanno facendo e mettersi a disposizione. Ecco, questo effettivamente è stata anche per noi una difficoltà. E quello che dicevi mi ha fatto venire in mente un'altra domanda, prima magari di vedere qualcos'altro. Chi ha accettato, come ti ha accolto? Come ti sei sentito accolto? E aggiungo, come si sono trovate di fronte alla tua fotocamera? Allora, tutti mi hanno accolto con un bicchiere di vino, in realtà, perché è così. Il signore che vi facevo vedere prima, il calzolaio, vi faccio un esempio veloce. Lui, io sono arrivato alla mattina alle 9, lui stava facendo colazione e insieme abbiamo bevuto mezzo bicchiere di vino rosso della cantina locale con dell'acqua bollente, come un tè. E non solo uno. E infatti eravamo abbastanza felici di fotografare, poi... Penso che una cosa tira l'altra, no? Alcuni sicuramente l'hanno fatto per essere più sciolti, ma altri veramente sono così e ti accolgono come se tu in quel momento sei parte della loro giornata, perché non funziona diversamente, dovrebbero cambiarla, se no. E quindi la stessa cosa, dopo aver provato, perché io non lo sapevo ancora com'era, dopo aver provato, io quando chiamavo dicevo: mi piacerebbe vivere 5 ore della tua vita insieme a te, io non ti do fastidio, te fai le tue cose, ti faccio le foto e basta. E loro, se c'è una telecamera o meno, sono molto meno, come diciamo, molto diversi da noi, perché noi abbiamo i telefoni e quindi è subito privacy e quindi la puoi mettere su internet, eccetera. Penso che l'ultima volta che ha visto una fotocamera fosse analogica, tanti di loro. E quindi... sì, sono contenti, non hanno tante problematiche a farsi fotografare. È più il tempo, e se gli dai fastidio all'interno di questa routine che hanno loro, ti mandano via anche. Cioè. Molto semplicemente non disturbare. Sì, sì. E, non so, Luca, vuoi che guardiamo magari qualche altro video giusto per entrare, ecco, in un altro contesto? Questa non fa parte del video, è la moglie del calzolaio che vi ho fatto vedere, che alle 10:30 tutti i giorni inizia a cucinare all'interno di questa cucina molto tradizionale a 1800 metri, e io ero invitato a pranzo con loro, quindi ha iniziato ancora prima in realtà. E qui si vede un pochino, insomma, le scene che c'erano. La luce, un'altra cosa che si nota, perché comunque io lavoro a stretto contatto con la luce tutti i giorni, e qui si vede che anche le case, come erano costruite, dove c'erano i piani di lavoro ci sono finestre, quindi qui io non avevo bisogno di nessun tipo di luce, perché loro hanno le finestre fatte in modo che dove loro poi agiscono hanno una fonte di luce che non è elettricità. Anche lui, stessa cosa, qua non c'è neanche una lampadina accesa. Ecco, questo invece è uno scultore in Val Gardena, stesso concetto con la luce. Sono, insomma, persone che comunque anche per la loro età hanno un'attenzione al dettaglio, e veramente io non ci credevo all'inizio, perché ci sono diverse persone che vi farò ancora vedere dove dici che avere questa mano ferma e creare questi dettagli a questa età è sbalorditivo per me. Quindi dici che sei sempre, praticamente quasi sempre, riuscito a lavorare con luce naturale, che forse per un fotografo riesce ad avere poi dei risultati veramente, veramente interessanti. Chi sfoglierà e acquisterà questo libro alla fine, perché c'è appunto, come dicevamo, l'Arezia che è a disposizione poi per la fine di questa presentazione a vendere il libro. Dicevo, chi prenderà in mano questo libro troverà ovviamente delle fotografie, ma troverà anche delle brevissime testimonianze in tedesco e in italiano. Esatto. Quindi è stato un lavoro, diciamo così, il risultato, il prodotto finale non è solo un libro fotografico, e questo progetto, mi pare di capire, è un progetto di raccolta di memorie. Sì. In un certo senso. Sì. Non so se vuoi dire qualcosa su questo, sull'idea del prodotto finale, su come lo avete costruito, lo immaginavate. Ma allora, noi avevamo anche comunque delle restrizioni a livello di cosa vende al momento, e fare un libro con solo delle immagini funziona, non funziona, quanto è interessante. E abbiamo pensato che comunque la gente, più le persone che poi lo comprano, più o meno un contesto hanno bisogno, perché vedi delle belle immagini, ok, però se hai un contesto, un'età, un luogo, qualcosa che viene, secondo me lo rende più interessante. E io facevo le interviste a loro riprendendoli nel corso della giornata, e da questo poi un autore ha trascritto, insomma, più o meno sono 10-15 frasi, sia in tedesco che in italiano. Hai accennato, ovviamente il tema principale, come abbiamo potuto capire, è il lavoro artigiano. Che lavoro ti hanno raccontato queste persone? Perché noi abbiamo un'idea di lavoro, di questo Luca ne avevamo anche già parlato al telefono brevemente, e mi ricollego anche alla nostra esperienza delle interviste che abbiamo fatto. Ti raccontano effettivamente un lavoro e una passione che, almeno da quella che è stata la nostra esperienza, è difficile ritrovare in altri racconti oggi, di un'idea di lavoro come siamo abituati a pensarla oggi. Non so se tu hai riscontrato la stessa tipologia di racconto legata al lavoro e al mestiere. Beh, allora, secondo me forse si può iniziare da un concetto, una problematica che io sento nelle persone più giovani di me, persone che conosco, persone della stessa età, che si ritrovano con una scelta molto ampia di diverse vie che puoi prendere all'interno della tua vita, insomma, dopo le superiori, già dopo le medie. E quindi, cioè, quello che loro mi hanno sempre detto è che all'interno, insomma, di quello che dicevano, filtravo, è che il loro mestiere è diventato importante proprio perché l'hanno fatto per così tanto tempo e hanno attraversato così tanti momenti alti e bassi, che il mestiere diventa una cosa come un tuo partner di vita, che tu sei passato in alti e bassi e te lo porti dietro, e diventa sempre più importante, perché penso che ognuno di noi più o meno possa rispecchiarsi in questo, che quando ti sei sbattuto per una cosa molto, alla fine della giornata o di questo che hai fatto, hai felicità, indipendentemente dal risultato. Il risultato poi può anche essere buono e sei ancora più felice, ma il fatto di averla fatta, anche se è stata difficile e hai dovuto sudare, automaticamente ti dà un sollievo e ti dice: sono felice, ho finito, mi siedo e dico: guarda cosa ho creato. Questo oggi, insomma, diventa una cosa un po' più difficile, perché la gente molla troppo presto, perché ha così tante possibilità in questi tempi qua. E per questo a me piace e sono affascinato dalle persone anziane di una volta: non c'erano tutte queste possibilità che abbiamo oggi, quindi si ritrovavano o continuare il Hof, quindi il maso o il mestiere, eccetera, di quello che c'era prima, che hanno passato ancora tempi più difficili, per poi arrivare a dire questa è la mia opzione, perché le tre opzioni che aveva magari uno, come primo che vi ho fatto vedere, a Duonhold sopra Sarentino, sì, non ci sono neanche tre opzioni in realtà. Hai bisogno di un posto dove puoi fare le tue calze e andare al mercato una volta al mese o di estate e venderle lì. Quindi anche logistico il problema, e noi tutti questi problemi non li riscontriamo più. Per me il mio mestiere è importante non solo perché mi piace un sacco farlo, ma perché è 10 anni dal 2014, quando andavo a fotografare al Miro, che ci combatto, ci convivo, insomma, tutti i giorni. Quindi sì, mollarlo ci pensi già 10 volte in più di qualcuno che lo fa un anno e dice non mi va più. Questa è un po' l'essenza di quello che mi è passato a me. Grazie. Non so Luca, se vuoi farci vedere qualcos'altro e poi andrei piano piano ad aprire se ci sono domande dal pubblico, volentieri. Ecco, questa è Olga, è una persona di, cioè una signora di Oltrisarco, e lei ha anche 90 anni e lavora con la cera su delle uova che poi lei svuota e poi le vendeva ai mercati. Erano in due, lei è l'unica rimasta in tutto l'Alto Adige a fare questo tipo di artigianato, che è stato sempre un più per lei, non solo questo faceva, ha lavorato anche in diversi ambiti. Lui invece è anche, secondo me, molto interessante. Le scritte che voi vedete sui masi, un attimo, sui masi ci sono delle scritte, beh, qua le intravedete un pochino. Quelle che vediamo tutti noi quando andiamo a camminare in montagna o insomma andiamo nei paesini, sui masi ci sono delle scritte così in gotico. Ecco, lui, Josef, è uno di quelli che come mestiere andava a scrivere i nomi dei masi su queste pareti, e anche lui ancora adesso per passione, insomma, vanno al mercato, le vendono così. Ecco, questi sono i video. Ok, per le foto poi lasciamo il pubblico all'acquisto del libro e diciamo vi prendete il tempo per guardare queste foto. Di questo abbiamo parlato anche brevemente con Luca, mi ricordo, la settimana scorsa, sulla forza di queste fotografie. Se stiamo parlando di fotografie, diciamo così, che si limitano tra virgolette a documentare un qualcosa che probabilmente stiamo perdendo e che sono però allo stesso tempo delle foto artistiche, quindi di questo abbiamo parlato, tra foto da definite per la documentazione o la foto d'arte. Questo è un argomento che avevamo trattato anche in relazione alla mostra che avevi fatto nel 2023. Sono foto che, dal mio punto di vista, se sfogliate il libro, coniugano entrambe le cose, stanno veramente documentando, come si diceva, delle vite che piano piano, che delle vite intere che piano piano stanno effettivamente scomparendo. Come si diceva anche all'inizio, la difficoltà di passare alle giovani generazioni questi mestieri sono difficoltà che abbiamo rincontrato anche noi nelle nostre interviste, che era anche forse quello che pesava di più a queste persone. Non so se vuoi dire qualcosa su questo, se avete avuto modo di parlare anche di questo, del dopo, insomma. Ripetimi la domanda un secondo. No, dicevo, comunque abbiamo iniziato e il tema è dedicato a mestieri che, diciamo così, abbiamo detto stanno scomparendo per la maggior parte, e accennavi all'inizio che c'è una difficoltà forse reale del non trovare persone disposte a portare avanti questi mestieri. Ti dicevo, noi nelle nostre interviste l'abbiamo vissuto abbastanza forte questa cosa, non so se anche nelle vostre, diciamo, discussioni o confronti con loro è venuto fuori anche questo. Ci sono diversi timbri di persona, comunque ci sono quelli pragmatici che ti dicono io una volta avevo bisogno di 3 mesi per fare una porta, adesso in 2 giorni mi arriva, diciamo, sul legno. Tutti quelli che sono falegnami ti dicono adesso, guarda, in realtà si è velocizzato tutto, la qualità non è male, mi va bene che mio figlio magari si sia comprato 5 macchine che automatizzano il tutto. Invece ci sono quelli che sono legati più emozionalmente, effettivamente, a lavorare con le mani, che sono sconvolti dal fatto che nessuno continui e che sono gli ultimi e a che dove possono scriverlo e chi possono dirlo. Vi faccio vedere, questo è Roman, questo è in Val di Funes, in realtà in delta della Val di Funes. Lui vive dal di fuori di tutto quello che ci si può immaginare, sì. È veramente molto alto, è una delle ultime case all'interno di una valle secondaria, e per lui il mestiere non è mai stato un mestiere per generare denaro, ma per sopravvivere. E questo anche si potrebbe continuare a parlare ore e ore, però effettivamente tanti nascono come ho bisogno di farlo perché sennò non sopravvivo. E questo è Roma, no? Con lo spec. E lo spec è più industrializzato, già averlo qualitativo, e quindi già guardare degli spec industriali, la gente dice siamo in Alto Adige, prendiamo uno spec tradizionale. In questo siamo abbastanza bravi a promuovere la tradizionalità. Quindi c'è gente che ha interesse, perché comunque c'è un ritorno economico. Negli altri mestieri è impossibile vivere come facevano loro. Grazie Luca, non so se ci sono domande, curiosità dal pubblico, altrimenti io, Luca, ti ringrazio per questa possibilità di aver presentato questo libro qui da noi. Ricordo che noi, grazie al nostro super tecnico, registriamo l'audio di tutte le nostre iniziative, quindi se conoscete qualcuno che questa sera non è potuto venire, reindirizzatelo al nostro sito internet, dove potrà poi riascoltare l'audio di questa iniziativa e di tutte le nostre serate. Io vi ringrazio, grazie Luca e bocca al lupo. Anch'io ringrazio te, chiaramente ringrazio l'Arezia, la mia famiglia, i miei amici, un sacco di amici, i miei vicini. Ecco, grazie mille, sono stato contento che ci siate stati.